Una buonasera da Max Macchia, anzi per meglio dire buonanotte, perdonatemi per la voce particolarmente nasale, ma come dire, i malesseri di stagione mi colpiscono di raffreddore in raffreddore, però vabbè, quest'anno va così. Comunque cercherò insomma di essere il meno cacofonico possibile, perlomeno a livello di voce, per 451 frammenti sonori in compagnia appunto mia, Max Macchia, che ovviamente vi saluta, vi dà un caldo saluto, un abbraccio insomma radiofonico e sonoro, perché no. Questa sera 451 si occuperà di forme in dissoluzione. Faremo un viaggio dentro quelle forme appunto che vanno trasformandosi in una sorta di dissoluzione, nel senso di trovare o a volte anche non trovare delle nuove forme, delle estrinsecazioni, delle espansioni, a volte anche proprio negare quelle forme partendo appunto da delle caratteristiche che possono insomma dare la connotazione appunto formale e non proprio dei generi, però a delle attitudini sonore che si sono insomma susseguite nel corso dell'ultimo più o meno decennio. Ascolteremo musica essenzialmente tratta dagli ultimi mesi, e proprio per andare a scoprire quelle che sono alcune ovviamente delle forme in dissoluzione, andare insomma a scandagliare quelle che potrebbero essere anche soluzioni nuove e anche appunto approcci che partendo da una negazione non negano definitivamente, ma anzi appunto aprono da tante musiche negative oppure legate insomma a periodi distruttivi musicalmente, linguisticamente. Potremmo prendere il punk, ma si potrebbe prendere anche, che ne so, il rumorismo dei primi futuristi, in un'accezione immediatamente negativa, distruttiva, poi in realtà insomma hanno aperto in maniera eccezionale e assolutamente insomma seminale per tutte le progettualità che ci sono state. Forme di soluzione appunto parte con un progetto che vede uno dei Pansonic, non Mika Vaino, che è sempre stato piuttosto attivo rispetto insomma all'altro Pansonic o Panasonic, come ci piace chiamarlo da queste parti, e anche perché insomma là la tolsero, più o meno tutti la sapete la storia, comunque la ripeto, la tolsero per la faccenda insomma della famosa ditta che obbligò, perché insomma non propriamente in linea con l'immagine insomma dell'azienda, a togliere a questo gruppo di animali digitali analogici che terrorizzavano insomma le varie elettroacustiche negli anni 90 fino ad arrivare insomma agli anni zero. Quindi fu intimato insomma di cambiare nome in maniera anche piuttosto brillante, e tolsero là per recuperarla poi in un album tra l'altro storico, dove appunto Pan ha il disco Sonic appunto La ragione sociale, la seconda parte La ragione sociale, e Ilpo senza Mika è tornato con un progetto assai interessante. Le forme in dissoluzione e qua sono legate tanto a quella memoria pansonica o panasonica che sentirete insomma con questi sub incredibili, questa techno veramente dissolta e liquefatta o addirittura a volte quasi scheletrizzata nel suo essere, e quasi una sorta di disegno scheletrico appunto della stessa techno, una radiografia quasi del suono techno, del beat, e quindi anche tutta quell'esperienza legata alle frequenze che sottilmente dentro il progetto Angel ci sono e che vanno a trasformare e a trasformarsi dentro un impianto quasi vicino alle contemporanee, alle musiche classiche contemporanee. Sentirete insomma veramente momenti elettroacustici che potrebbero assomigliare anche a compositori insomma legati più appunto alle musiche contemporanee che non alle elettroniche, anche a volte terroristiche, perché no, di Ilpo Weisen e appunto Mika Vain quando erano con Panasonic. E Angel, andiamo a ascoltare da questa terra null, forse il titolo già ci dice molto su quello che è uno comunque dei dischi più interessanti di questi ultimi mesi, e che sicuramente ci racconta una forma appunto in dissoluzione e un strano approdo, se di approdo si può trattare, perché forse è una perdita, uno smarrimento molto interessante anche proprio per questa faccenda. Angel. sul serio interessante questo Angel da parte di un grosso personaggio, insomma, come Väisänen, Ilpo Väisänen, appunto colui che era la seconda metà dei Panasonic o Pansonic, e che appunto con un progetto che non nasce ora, ma in fase alterna, insomma, si è visto, insomma, anche di fatto dal vivo, se pensiamo, insomma, che Angel nasce quasi come costola di un performance spalla, se così potremmo definirla, di Ilpo Väisänen insieme a Dirk Drusselhaus, che forse è più conosciuto, anzi senz'altro, come Snyder TM, geniaccio del digital glitch pop più veramente fantasioso, più eclettico nel suo farsi, anche molto giocoso, anche con grossi rimandi, insomma. Snyder TM ha fatto cose veramente notevoli proprio nel pop, digitalizzando, insomma, in una maniera anche piuttosto, insomma, ardita, a quello che è un linguaggio che per molti versi, soprattutto negli anni 90, era difficilmente digitalizzabile, perlomeno nella accezione glitchante, quindi legata ad errori che ovviamente portano lontano dal pop. Il pop è una musica, insomma, che fondamentalmente si vorrebbe perfetta proprio per essere pop, o perlomeno, insomma, grande pop. E invece con Snyder TM, in un grande equilibrio di giochi, il pop glitcha anche, appunto, ulteriormente rendendo la cosa diretta, quindi più pop, se pensiamo, insomma, alla cover fatta su The Light, eccetera eccetera, degli Smiths, uno dei gioielli veramente del glitch pop degli anni 90, fine anni 90. E proprio alla fine degli anni 90 Snyder TM aiutava Ilpo Väisänen nella prima formazione, se vogliamo considerarla tale, di Angel, proprio durante un concerto, tra l'altro, di Pansonic, quindi, insomma, la performance spalla, insomma, sarebbe stata quella, fatemi passare, insomma, la definizione, insomma, performance spalla significa ben poco, se non, insomma, qualche cosa di stranamente medico, ma non lo è, insomma, anche se c'è qualcosa sempre di medicabile dentro le musiche di Väisänen, nel senso, appunto, di ammorbate sempre di questa strana nordicità, che poi, vabbè, strana neanche più di tanto, visto che è uomo del profondo nord, appunto, quindi abituato anche a scenari, anche a suoni legati tanto alle terre ghiacciate, appunto, del nord Europa. Con Snyder TM il linguaggio diventa anche più giocoso, in una maniera, insomma, in un'accezione che comunque è controllata da Väisänen, quindi anche con il giusto peso dato anche alle giocosità di Snyder TM dentro il progetto Angel, che appunto è arrivato ai nostri giorni con questo disco veramente notevole, Terra Nulla, che racconta, insomma, di questa dissoluzione tra musiche contemporanee e un basso distorto che diventa una specie di drone, delle frequenze che attraversano, appunto, queste musicalità e veramente trasformano e dissolvono quella materia sonora, anche piuttosto potente ancora, non come Pansonic, ma che regge ancora con Angel, insomma. Uno delle caratteristiche di Väisänen è sempre stato, sia con Pansonic che con gli sporadici lavori da solo, e quello, insomma, di essere decisamente potente. Qua comunque, appunto, i giochi vengono anche districati piuttosto bene con queste vaghezze, insomma, classicheggianti. E se Angel, insomma, appartiene tra le dissoluzioni più interessanti di questi ultimi mesi, una sua filiazione, potremmo definirla così, pur provenendo dall'Austria, quindi scendiamo un po' di più rispetto alla Finlandia, LCC, lo dico all'italiana, LCC se volete, insomma, l'inglese, Devolution, disco notevolissimo, che racconta, insomma, questa ambiente sperimentale che va tanto a impattare con quel suono tecnoide, tecnoscheletrico di Pansonic, e anche con miraggi, insomma, legati all'ambient dronante e alla dissolvenza anche di questo, insomma, se non proprio dissoluzione, comunque sicuramente lo sfocamento anche di un panorama, se vogliamo, insomma, legato alle grandi ambientazioni che abbiamo sentito anche prima da Angel, quindi anche a una sorta di aerosità. Qua siamo più forse verso un territorio non più chiuso, ma sicuramente, insomma, più sfocato rispetto, insomma, alle vedute anche piuttosto chiare di Terra Nulla, accecanti quasi per essere chiare, lucenti di Angel. E invece con Devolution c'è questo, appunto, gioco anche chiaroscurale. Lo andiamo a sentire, appunto, senza, come dire, perderci in mille parole, che poi, insomma, non è mai perdersi, ma è aprire anche qua, cercare una sorta di dissoluzione. Lavoro seriamente splendido questo di Oren Ambarci, che l'abbiamo unito a LCC, al suo disco d'esordio Devolution, altrettanto insomma bello, perlomeno insomma come disco di inizio, senz'altro decisamente inaugurante e augurante bene ovviamente. E Oren Ambarci torna con Quixotism. In realtà non si è mai perso Oren Ambarci, visto che da 20 anni insomma le uscite discografiche sono sempre eccellenti, sia in termini insomma qualitativi ovviamente, ma anche in termini quantitativi. Si dà da fare il nostro personaggio, non smarrendo, anzi quando la smarrisce è per una volontà, la strada chiaramente di un suono para rock, si potrebbe definire quello di Ambarci, parte come chitarrista e batterista dentro formazioni insomma inizialmente rock, ma con tutte insomma le possibilità date da un genere che non è un genere insomma, e poi questa dimensione sempre elettronica, questa dissoluzione sempre tra i due mondi, tra le elettronica e rock, e anche quella genialità che da sempre insomma porta tra le corde e figlia dentro insomma le musiche di Oren Ambarci, ovvero quella dell'improvvisazione anche radicale, con Quixotism addirittura la dissoluzione prevede anche etnicità toccate per dei momenti anche comunque piuttosto insomma importanti a livello sonoro. E in effetti gli esotismi poi vengono dalle tabla anche trattate e dialetti, che si potrebbe dire per molti aspetti di Uzan, ovvero la tabla anche di Asa Chang e Jurei, quindi formazione insomma storica, perlomeno insomma per un paio di dischi assolutamente eccezionali tra la fine degli anni 90 e i primi anni zero, e la dialettica appunto con Thomas Brinkman che ritorna anche lui. In questi ultimi mesi insomma si sta facendo risentire più che altro in termini di collaborazioni, ma sembra tornato insomma ad una certa forma il tedesco Thomas Brinkman, anche egli come Panasonic insomma dedito a un suono scheletrizzato, andando proprio alla sostanza della techno, del battito, di una certa dance music che veramente viene quasi a rendersi astratta in molte situazioni. Appunto qua lo troviamo insieme a Uzan alla tabla e alle sue appunto batterie elettroniche, alle sue programmazioni anche ovviamente, e diventa veramente un lavoro eccezionale per questo strano esotismo, un esotismo anche tutto interno, tutto mentale di Brinkman, che però appunto associato a Uzan, alla viola tra l'altro di Evin Kang, neanche a dirvi chi è Evin Kang, insomma grande protagonista soprattutto come strumentista di molte faccende importanti anche egli degli ultimi 20 anni, passando dalla Zadig con varie collaborazioni fino a progetti post rock come UI, ma veramente insomma sono Tabby Frizzell, sono veramente tantissime le collaborazioni come strumentista di Evin Kang. E poi anche egli un'ombra delle musiche ombreggia ancora Jim O'Rourke nelle musiche attuali, e torna anche di fatto, quindi non più solo come fantasma di molte musiche degli anni zero e anni 90, portate appunto all'odierno, all'attualità, ma anche proprio come strumentista, in questo caso al synth, e qua si diverte tra l'altro a creare atmosfere vicino a un mondo molto classico contemporaneo, quindi anche qua esotismi e quasi insomma astrazioni pan naturalistiche, si potrebbe dire così, attraverso le tabla e queste ritmicità assolutamente digitali di Brinkman, che però ricordano quasi una sorta di tantam primordiale. E poi appunto la viola splendida di Kang, che va a rendere ancora più contemporaneo il mondo appunto di Quixotism di Oren Ambarci, e ovviamente insomma il synth di O'Rourke, che cerca di amalgamare e a volte invece crea anche degli stacchi, come abbiamo sentito, anch'essi che vengono da una certa contemporanea. E se con Ambarci, LCC o LCC Angel abbiamo toccato poi di fatto il mondo della Mego, sono tutte e tre dischi del 2014 della storica oramai etichetta legata a Peter Reberg, Pita più conosciuto, insomma aspettiamo anzi un disco anche appunto col suo progetto Pita, che da un po' insomma manca tanto insomma dentro la produzione e anche insomma di un veramente livello eccelso, quella della Mego, edizione appunto diretta da Peter Reberg, ma tant'è insomma che anche lui insomma lo rivorremmo dentro le musiche di fatto poi registrate, editate proprio a nome appunto Pita o magari con qualche altra collaborazione. Collaborazioni che impattano in maniera anche piuttosto assurda dentro Nazo Ranai, progetto che prevede per questo secondo disco, come per il primo, Cajaino, Oren Ambarci, beh, guarda un po' il caso, e Stefano Mal, quindi tre personaggi che hanno fatto della dissoluzione para-rock, del rock più marginale, più estremo, nel senso proprio di fuoriuscita, anche appunto dallo stesso linguaggio rock, hanno fatto una vera e propria miscela esplosiva di questa attitudine appunto ai limiti, di minare. Ci andiamo a prendere da questo The Most Painful Time, disco notevolissimo per impatto sonoro e per appunto dissoluzione di una musica già dissoluta di per sé, l'improvvisazione trapiantata o addirittura proprio che violenta quasi la forma rock per diventare insomma una dissoluzione veramente molto interessante e forse anche proprio perché quasi senza meta decisamente insomma futuribile.